Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Lungo la strada tornava alla mente di D'Artagnan ciò che Athos aveva detto di Madame Bonacieux. Benché egli non fosse d'indole troppo sentimentale, la graziosa merciaia aveva fatto breccia veramente nel suo cuore. Come gli affermava, era disposto ad andare a cercarla in capo al mondo, ma il mondo ha molti capi, per il fatto stesso che è rotondo, sicché egli non sapeva da che parte cominciare. Nell'attesa avrebbe cercato di scoprire chi fosse Milady. Milady aveva parlato all'uomo dal mantello nero, dunque lo conosceva, e secondo D'Artagnan era stato l'uomo dal mantello nero a rapire la seconda volta Madame Bonacieux come la prima. D'Artagnan mentiva dunque solo per metà, il che è mentire assai poco quando diceva che, ponendosi alla ricerca di Milady, si poneva al tempo stesso alla ricerca di Constance. Immerso in queste riflessioni, D'Artagnan attraversava una strada completamente deserta, guardando a destra e a sinistra nella speranza di scoprire qualche traccia della sua bella inglese, quando al pianterreno di una graziosa casa vide spuntare una figura nota. Questa figura passeggiava su una specie di terrazza fiorita. Planchet la riconobbe per primo. «Perdinci, signore», disse Planchet, «è il povero Lubin, il domestico del conte de Vardes, quello che avete conciato così bene un mese fa a Calais, sulla strada della casa di campagna del governatore». «Ah, già, adesso lo riconosco», fece D'Artagnan. «Credi che a te ti riconoscerebbe, a dire la verità, signore. Era così sconvolto che non credo abbia serbato di me un ricordo molto chiaro. Bene. Allora va a chiacchierare con quel tipo e informati così discorrendo se il suo padrone è morto». Planchet smontò da cavallo e puntò dritto su Lubin, il quale difatti non lo riconobbe. I due domestici cominciarono a chiacchierare intendendosela a meraviglia, mentre D'Artagnan spingeva i cavalli in un vicolo per tornarsene, dopo aver girato intorno a una casa ad assistere al colloquio da dietro una siepe di noccioli. Era da poco in osservazione dietro la siepe quando udì un rumore di ruote e proprio di faccia vide fermarsi la carrozza di Milady. Non c'era da sbagliare. Dentro c'era Milady. D'Artagnan si abbassò sul collo del cavallo per vedere tutto senza essere veduto. Milady sporse la bella testa bionda dallo sportello e impartì ordini alla cameriera. Quest'ultima, una graziosa ragazza tra i 20 e i 22 anni, svelta e vivace, saltò giù dal predellino sul quale era seduta secondo la moda del tempo e si diresse alla terrazza dove D'Artagnan aveva scorto Lubin. D'Artagnan la seguì con gli occhi e la vide avviarsi alla terrazza. Ma per combinazione Lubin era stato richiamato dentro casa, sicché Planchet era rimasto solo a guardare in giro cercando dove fosse andato a finire D'Artagnan. La cameriera si avvicinò a Planchet scambiandolo per Lubin e gli tese un bigliettino dicendogli «per il vostro padrone» e scappò verso la carrozza già voltata nella direzione d'onde era venuta, balzò sul predellino e la carrozza ripartì. «Per voi, signore», disse Planchet, porgendo il biglietto a D'Artagnan. «Per me?» disse D'Artagnan. «Ne sei proprio certo?» «Per Dio, se ne sono certo! La cameriera ha detto per il tuo padrone!» D'Artagnan aprì la lettera e lesse queste parole. «Una persona che si interessa a voi più di quanto possa dire vorrebbe sapere in quale giorno sarete in grado di passeggiare nella foresta. Domani, alla locanda del Champ du Drap d'Or, un domestico in livrea nera e rossa aspetterà la vostra risposta». «Dunque, Planchet, come sta quel bravo Monsieur de Vardes?» Allora, non è morto? No, signore. Sta bene come si può stare con 4 sciabolate in corpo, perché, sia detto senza rimprovero, gliene avete inflitte 4 a quel caro gentiluomo. Come vi avevo detto, Lubin non mi ha riconosciuto e mi ha raccontato da cima a fondo la nostra avventura. Benissimo, Planchet. Sei il re dei domestici. Adesso risali a cavallo e raggiungiamo la carrozza. Non ci volle molto. Dopo 5 minuti la scorsero ferma a un lato della strada. Allo sportello stava un cavaliere sfarzosamente vestito. La conversazione fra Milady e il cavaliere era molto animata. Si svolgeva in inglese, lingua che D'Artagnan non capiva, ma dal tono egli credette di intuire che la bella fosse molto in collera. Ella terminò con un gesto che non gli lasciò dubbi sulla natura di quella conversazione, un colpo di ventaglio vibrato con tale violenza che quel gingillo femminile volò in 1000 pezzi. Il cavaliere scoppiò in una risata che sembrò esasperare Milady. D'Artagnan pensò che fosse il momento di intervenire. Si accostò all'altro sportello e, scoprendosi rispettosamente il capo, disse: «Signora, mi permettete di offrirvi i miei servigi? Mi pare che questo cavaliere abbia suscitato il vostro sdegno. Dite una parola, signora, e mi incarico di punirlo della sua scortesia». Alle prime parole Milady si era voltata guardando stupita il giovanotto e quando questi ebbe finito disse in ottimo francese: «Signore, molto volentieri accetterei la vostra protezione se la persona con cui sto litigando non fosse mio fratello». «Scusatemi allora», rispose D'Artagnan, «come potete immaginare, signora, io lo ignoravo». «Ma di che si impiccia questo sconsiderato?» esclamò, chinandosi all'altezza dello sportello, il cavaliere che Milady aveva designato come suo parente. «E perché non se ne va per la sua strada?» «Sconsiderato voi», replicò D'Artagnan, chinandosi a sua volta sul collo del cavallo e rispondendo dal canto suo attraverso lo sportello. «Non vado per la mia strada, perché mi piace fermarmi qui». Il cavaliere rivolse alcune parole in inglese alla sorella. «Vi parlo francese io», disse D'Artagnan. «Fatemi quindi il favore, di grazia, di rispondermi nella stessa lingua. Siete il fratello della signora, e sia, ma non siete il mio, per fortuna». Ci si sarebbe potuti aspettare che Milady, paurosa come sono di solito le donne, si intromettesse in quell'inizio di provocazione per impedire che il litigio si spingesse oltre, ma al contrario, ella si lasciò ricadere nel fondo della carrozza e freddamente gridò al cocchiere: «Presto, a casa!» La graziosa cameriera gettò uno sguardo preoccupato verso D'Artagnan, il cui bell'aspetto sembrava averle fatto impressione. La carrozza partì lasciando i due uomini l'uno di fronte all'altro, non più separati da alcun ostacolo materiale. Il cavaliere accennò a muoversi per seguire la vettura, ma D'Artagnan, che già gonfio di collera, andava vie più accendendosi, disse: «Ehi, signore, sembrate ancora più sconsiderato di me perché, a quanto pare, dimenticate che è in corso tra noi una piccola contesa». «Lo vedete che sono senza spada», rispose l'inglese. «Spero bene che ne avrete a casa», replicò D'Artagnan. «Sono abbastanza fornito di simili arnesi», disse l'inglese. «Ebbene, mio degno gentiluomo», ribatté D'Artagnan, «scegliete la più lunga e venite a mostrarmela stasera». «E dove, di grazia?» «Dietro il Luxembourg. È un posto simpatico per le passeggiate del genere di quella che vi propongo». Sta bene, ci sarò. A proposito, avete probabilmente anche uno o due amici? Ma ne ho tre, che saranno onoratissimi di giocare la stessa mia partita. Tre? Perfetto! Che felice combinazione, disse D'Artagnan. Proprio quello che fa per me. E adesso, chiese l'inglese, chi siete voi? Sono Monsieur D'Artagnan, gentiluomo guascone, arruolato nelle guardie, compagnia di Monsieur de Cessard. E voi? Sono Lord Winter, barone di Sheffield. Giunta l'ora, i quattro amici si recarono con i quattro servitori dietro il Luxembourg, in un recinto dove pascolavano delle capre. Quasi subito un gruppetto silenzioso si avvicinò allo stesso recinto, vi entrò e raggiunse i moschettieri. Poi, secondo le consuetudini d'oltremare, ebbero luogo le presentazioni. Gli inglesi erano tutte persone di alto lignaggio e i bizzarri nomi degli avversari causarono loro non soltanto meraviglia, ma anche inquietudine. «Ma con tutto ciò», disse Lord Winter, quando i tre amici ebbero detto i loro nomi, «non sappiamo chi siete e non ci batteremo contro nomi simili. Sono nomi da pecorai. Difatti, come ben lo supponete, milord, sono nomi falsi», disse Athos, «il che ci rende ancora più desiderosi di conoscere i nomi veri», rispose l'inglese. «È giusto», ammise Athos. E preso in disparte quello dei quattro inglesi con cui doveva battersi, gli mormorò il proprio nome. Accanto loro Porthos e Aramis fecero altrettanto. «Questo vi basta», aggiunse Athos al suo avversario, «e mi giudicate abbastanza nobile per concedermi la grazia di incrociare la spada con me?» L'inglese rispose inchinandosi, «Sì, signore, avreste fatto bene a non pretendere che mi facessi conoscere», soggiunse freddo Athos. «E perché?» «Perché mi credono morto e ho dei motivi per desiderare che non si sappia che io vivo e sarò costretto a uccidervi affinché il mio segreto non sia conosciuto». L'inglese guardò Athos credendo che scherzasse. Ma Athos non scherzava affatto. «Signori», disse rivolgendosi a compagni e avversari, «siamo pronti?» «Sì», risposero una voce inglesi e francesi. «Allora in guardia», disse Athos. E subito otto spade scintillarono ai raggi del sole al tramonto e il combattimento incominciò accanito, come era naturale, fra persone due volte nemiche. Athos lavorava di spada con altrettanta calma e metodo che se si fosse trovato in una sala di scherma. Porthos, la cui eccessiva baldanza era stata attenuata dall'avventura di Chantilly, conduceva un gioco quanto mai accorto e prudente. Aramis, che voleva ultimare il terzo canto del poema, si sbrigava come chi ha gran premura. Athos per primo uccise l'avversario. Non gli aveva vibrato che un colpo, ma come aveva preannunciato, era stato un colpo mortale. La spada gli aveva trapassato il cuore. Porthos stese il suo nemico sull'erba, gli aveva trafitto la coscia. E siccome l'inglese, senza opporre ulteriore resistenza, gli aveva consegnato la spada, Porthos lo prese tra le braccia e lo trasportò alla carrozza. Aramis attaccò il suo inglese con tanta veemenza che quegli, dopo avere arretrato una cinquantina di passi, finì per fuggirsene a gambe levate e sparire fra i fischi dei domestici. Quanto a D'Artagnan, si era limitato semplicemente a parare i colpi, poi quando aveva veduto l'avversario esausto con una vigorosa stoccata di fianco, gli aveva fatto schizzare via la spada. Il barone vedendosi disarmato, indietreggiò di 2 o 3 passi. D'Artagnan gli fu sopra, portandogli la spada alla gola. «Potrei uccidervi, signore», disse all'inglese, «ma vi faccio grazia della vita per amore di vostra sorella». L'inglese, lieto di avere a che fare con un gentiluomo di così nobili sentimenti, strinse D'Artagnan tra le braccia. «E adesso, mio giovane amico, perché spero mi permetterete di chiamarvi così», disse Lord de Winter, «stasera stessa, se lo volete, vi presenterò a mia sorella, Lady Cleric, perché voglio che anche lei vi accolga nelle sue grazie, e siccome è piuttosto ben vista a corte, forse in avvenire una sua parola non vi sarebbe inutile». D'Artagnan arrossì di piacere e s'inchinò assentendo. Nel congedarsi, Lord Winter gli diede l'indirizzo della sorella, la quale abitava in Place Royale, nel quartiere allora di moda, al numero 6. Gli promise inoltre di venirlo a prendere per fare la presentazione. Milady Cleric accolse graziosamente D'Artagnan. La sua casa era particolarmente sfarzosa, e benché la maggior parte degli inglesi, cacciati dalla guerra, abbandonassero la Francia o fossero lì lì per abbandonarla, Milady aveva ultimamente fatto in casa nuove spese, il che provava che il provvedimento generale di espulsione nei confronti degli inglesi non la riguardava. «Ecco un giovane gentiluomo», disse Lord Winter presentando D'Artagnan alla sorella, «che ha avuto nelle sue mani la mia vita e che non ha voluto abusare del suo vantaggio, benché fossimo doppiamente nemici, perché sono stato io a offenderlo e sono inglese. Ringraziatelo dunque, signora, se avete un po' di affetto per me». Milady corrugò leggermente le sopracciglia. Una nube appena visibile passò sulla sua fronte e sulle sue labbra apparve un sorriso talmente ambiguo che il giovane, nel notare quella triplice sfumatura, provò come un brivido. Il fratello non vide nulla. S'era voltato per giocherellare con la scimmia favorita di Milady che l'aveva tirato per il farsetto. «Siate il benvenuto, signore», disse Milady con una voce la cui particolare dolcezza contrastava con i sintomi di malumore notati da D'Artagnan. «Oggi vi siete acquistato dei diritti eterni alla mia riconoscenza». In quel momento entrò la graziosa cameriera già notata da D'Artagnan. Sussurrò qualche parola in inglese a Lord Winter, il quale chiese subito all'ospite il permesso di ritirarsi, scusandosi dell'affare urgente che lo chiamava e pregando la sorella di farlo perdonare. D'Artagnan scambiò con Lord Winter una stretta di mano e tornò vicino a Milady. Con mobilità straordinaria, il viso di costei aveva assunto di nuovo un'espressione amabile. Soltanto qualche macchiolina rossa sul fazzoletto rivelava che si era morse le labbra a sangue. Quelle labbra erano magnifiche, si sarebbero dette di corallo. L'indomani D'Artagnan tornò e fu ricevuto ancor meglio della vigilia. Lord Winter non c'era e questa volta fu Milady che gli fece tutti gli onori della serata. Parve interessarsi molto a lui, gli chiese di dove fosse, chi fossero i suoi amici e se qualche volta non avesse pensato di porsi al servizio del cardinale. In D'Artagnan, che per i suoi 20 anni era, come sappiamo, assai prudente, si risvegliarono i sospetti sul conto di Milady. Le tessé quindi un grande elogio di sua eminenza, le disse che sarebbe certamente entrato nelle guardie del cardinale invece che in quelle del re, se avesse conosciuto per tempo Monsieur de Cavois anziché Monsieur de Treville. Milady cambiò discorso e chiese a D'Artagnan con fare indifferente se fosse mai stato in Inghilterra. D'Artagnan rispose che vi era stato mandato da Monsieur de Tréville per trattare un rifornimento di cavalli e anzi ne aveva ricondotti 4 come campioni. Nel corso della conversazione Milady si morse 2 o 3 volte le labbra. Aveva a che fare con un guascone che conduceva un gioco serrato. D'Artagnan si ritirò alla stessa ora della sera prima. Nel corridoio incontrò di nuovo la graziosa Ketty, così si chiamava la cameriera. Costei lo guardò con un'espressione di misteriosa benevolenza sulla quale non c'era da sbagliare. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello, @rai.it.